moltissimo gente, perché so che stai trasmettendo da Formentera, sei lì con tutti i calciatori, tutte le veline scosciate. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. D'Ungheria che parte adesso con Rosberg, che ha un ottimo spunto, non benissimo invece Vettel. Lewis Hamilton viene attaccato da Sebastian Vettel all'esterno, ruota Sebastian Vettel, Lewis Hamilton deve staccare Hamilton e Vettel va all'esterno con Rosberg che tiene all'interno, Sebastian Vettel leader del Gran Premio con Raikkonen che va all'attacco di Nico Rosberg, incredibile partenza della Ferrari, dentro Kimi Raikkonen in curva 2, Sebastian Vettel in testa al Gran Premio d'Ungheria. Per la prima volta in carriera il Gran Premio di Ungheria, vince guidando la Ferrari e arriva a 41 vittorie come Ayrton Senna. Another flag in Maranello, well done! Grande Sacco, sei un grande! Vai, vai, vai! Grazie ragazzi, grazie! Dopo una domenica come questa, io, Giorgio Di Luca, il mio autore, Gianmarco Ferronati regia e Giovanni Melchione in redazione, vogliamo sentire, oltre al libro cuore, vogliamo sentire al telefono ferraristi eccitati come mandrilli. 800 24 00 24, confesso che da ieri pomeriggio non faccio altro che pensare a ciò che mi avrebbe detto oggi Leo Turrini, che stamattina peraltro ho visto su Sky ed era discretamente eccitato. Oltre che grandissimo. Buongiorno maestro, come andiamo? E beh, direi bene, direi proprio bene, direi proprio allora, bene. Direi guarda, che ci ha preso il giornale rosa, Mago Vettel, c'è stato qualcosa di magico in Ungheria, forse addirittura di difficile da spiegare secondo parametri tecnici. Secondo me è stata una vera vittoria Ferrari. Se tu prendi la storia di questa scuderia straordinaria, ti imbatti spesso in episodi così, no? In trionfi anche inattesi che poi si legano a vicende emozionali. È stato benissimo a riproporre l'audio di Seb dopo l'arrivo dedicato a Jules Bianchi. Insomma, io voglio dire una cosa, poi dopo parliamo anche in termini più allegri, ma questo Vettel non è solo bravissimo al volante, è anche un ragazzo dotato di una sensibilità straordinaria. Io martedì ero a Maranello, era il giorno del funerale a Nizza di Bianchi, e ho visto arrivare Vettel nel pomeriggio, che era stato a dare l'ultimo saluto a questo suo compagno, collega, eccetera, e nonostante il dolore che provava era arrivato in fabbrica perché voleva sperimentare nuove soluzioni per la gara di Budapest al simulatore. Anche essere che nel suo inconscio percepisse che a Budapest forse sarebbe stato possibile dedicare la vittoria al ragazzo francese. Insomma, quando noi diciamo che la Ferrari non è solo un elemento di cronaca e nemmeno un elemento di borsa, per citare sì, Marchionne, certo. Ci riferiamo anche a queste cose. Dopodiché volevo dare notizie per il traffico. Attenzione, vai. Sulla Salerno Reggio Calabria c'è un pedone che sta correndo sotto il Solleone in maniera frenetica. Hamilton, gente, che sei bravo, no? Mi dici chi è che sta correndo a piedi sull'autostrada? Correndo a piedi sull'autostrada? Maurizio arriva bene, ha detto Iron Mauri. Perché all'inizio del campionato questo pazzoide di arriva bene, Mr. Rywell, disse: se vinciamo tre Gran Premi 2015 io andrò a piedi da Maranello a Sestola. Te lo dico per chi non conoscesse la geografia dell'Emilia, è un bel paese di montagna che dista 70 chilometri dalla capitale della Ferrari. Ne manca uno, E questo arriva bene, ha estorto me la promessa che io lo accompagnerò nel caso dovesse accadere questa cosa. Io sono molto preoccupato. Quindi sei discretamente preoccupato. Questa camminata assolutamente improbabile, se non impossibile, come un po' il taglio delle tasse di Renzi, così dopo possiamo passare alla linea Fox Economia. E invece temo che dovrò farlo, perché ci sono ancora 9 gare. E figuriamoci se questo Vettel non ne vince almeno un'altra. Mai visto mai magari il biondino che ieri, cioè dentro quella partenza ieri c'è stato tutto. Caro Gento, tu però scusa, fammi dare un'informazione di servizio, se no poi mi scordo. Formentera però Gento. No, è da Formentera. Allora Leo, mare, quale no, sono a Milano in via Monterosa, dove rimarrò. Sentivo lo sciabordare delle acque, beato te lì. Senti male probabilmente il telefono di Pardo, che peraltro oggi non c'è perché è in gabina. No, è in gabina di commento, perché c'è Inter Real Madrid. Ma figurati, lui sai dove è Pardo, io lo conosco, è sullo yacht di Briatore che capta il segnale televisivo da un emittente cinese e finge di essere in diretta. E lo fa da lì. Bravo, bravo. Sai, con però... le Gregoracci che gli porta un cocktail. Però da oggi ci fanno un po' di sconto, perché insomma da oggi puntata ridotta ad un'ora, ma saremo sempre qui tutti i giorni. Vabbè, al mare, lo so, dove no, un'ora, bravi, un'ora, voi. Un'ora, ma sai per quanto tempo fino all'inizio del campionato? Io sono qui che lavoro, sì. Poi notoriamente delle radio, che vedete il bel mondo, certo. Siete lì in spiaggia, beati voi, cosa certo. Volete che vedete? E però ci stiamo un'ora soltanto, sai che roba, fino a quando comincia il campionato, meno di un mese. Lo sconto dura poco, tra l'altro stasera sorteggi dei calendari eccetera eccetera eccetera. Senti, ma quando arrivi a Sestola Cona arriva bene? 70 chilometri però, a piedi, però confidare nella Mercedes per evitare questo rischio per la nostra salute mia e di Maurizio arriva bene. Però arrivatela e vi aspetta la pizza. No, ieri sera mi sono fatto una pizza all'arrabbiata, perché a me gli spaghetti non è che piacciono tanto, la pizza all'arrabbiata la preferisco. E poi niente, la seconda vittoria, 10 gare, 8 podi, 2 vittorie, fate voi i vostri conti. Poi a chi non li sa fare dedico questa vittoria, ok? E quindi il menù è già pronto, con buona pace del maestro Paolini. Aggiorniamo le notizie sul traffico, perché questo pedone che Maurizio arriva bene è arrivato al casello di Lamezia Terme, ha già fatto 25 km di allenamento, quindi si è trovato un rallentamento, non è il solito problema che già 38 governi hanno detto stiamo completando la Salerno-Reggio Calabria. Già. E arriva bene che corre lì, ma tu mi avevi sprufoliato su Raikkonen. Aspetta che c'è il traffico. No, quello vero? Lo penso un po'. Lancialo tu che poi parliamo di Raikkonen. No, allora, se parliamo di traffico voglio dirvi che ci sono un paio di Mercedes, quella di Rosberg e quella di Hamilton, che stanno sbandando paurosamente sulla Pero Cormano, perché sono rimaste talmente sbigottite quando in fondo alla prima curva erano dietro le due macchine rosse che non tengono più l'asfalto. Sentiamo se è vero. Tutti convocati. Tutti convocati. Mamma mia, peccato per Kimi, veramente. Peccato, perché qui rischiavamo di fare la doppietta. Poi il giorno che potremo scegliere noi le nostre gomme sarà sempre tardi, te lo dico io. Ma noi abbiamo carattere, abbiamo umiltà e siamo qua, abbiamo preso la direzione giusta e siamo qua per far bene, punto. Mentre c'è chi scrive Lori da Milano arriva bene top player, c'è un altro che scrive i tedeschi sono bravi a pianificare i successi, difficilmente però i crucchi gestiscono gli imprevisti in modo lucido. Questo è un ascoltatore che non si firma, che manda un sms, ma aspetto le vostre voci. 800 24 00 24. Dunque Leo Turrini, Kimi Raikkonen. Allora, se un viandante bulgaro fosse passato ieri in Italia e si fosse posizionato davanti al televisore alla fine del primo giro, avrebbe detto la Ferrari deve cambiare uno dei due piloti? Questa è la domanda. Uno venuto da Sofia, hai capito? Ma la risposta è anche senza che serva il viandante bulgaro. Ma voglio dire, cioè, allora, io, tu sai perché mi usi la cortesia di farmi partecipare a questo capolavoro di trasmissione che è Tutti Convocati, che è un po' quello che era Studio 1 con Lelio Tazzi e Mina in televisione, no? Quando ero bambino io, un cult, no? Allora, abbiamo due piloti che stanno bene insieme. Sì. Non hanno dei problemi, voglio dire, personali fra di loro. Ieri si è visto, perché in fondo al rettilineo Raikkonen era persino più avanti di Vettel, eh? Se avesse avuto una difficoltà di relazione col partner, magari tentava lui di andare davanti. Gli ha coperto le spalle fin quando non ha avuto il noto problema la Power Unit. Allora, siccome quello che manca ancora alla Ferrari è la competitività del mezzo, perché non tutte le piste sono Budapest rispetto alla Mercedes, io, come ti dico da settimane, da mesi, intanto vi segnalo che arriva bene correndo in allenamento, è quasi alla Spromonte, eh? Quindi se prendete l'uscita di Locri sulla Salerno-Reggio Calabria c'è un rallentamento, perché è lui che deve prepararsi per fare la Maranello sempre, quindi ve lo segnalo. Ma dicevo, a parte tutto questo, l'esigenza della Ferrari è di concentrarsi sul prodotto da gara, sì, sulla vettura. Non ha nessun senso insistere a dire ma Kimi è bollito, avete visto ieri che non è bollito, è uno che va fortissimo, è un vecchietto simpatico imbottito di vodka che vi fa ancora delle partenze del genere. Ma dove lo trovate? È come certi dischi di Bob Dylan, no? Che tutti i mentirini dice ma questo ha 80 anni però ancora, hai capito? Allora io mi auguro che questa vittoria, che era serenante per la Ferrari, per l'ambiente, per la scuderia, favorisca una decisione sensata e che si vada avanti col ragazzino Seb, che adoriamo tutti, e con il veterano, che è l'ultimo campione del mondo a Maranello, mentre mi dicono che sulla Roma Ostia, attenzione, c'è una cosa, il camper di Pardo che sta commentando dal Pardo dal Pardo camper Real Madrid Inter è vediamo. Bloccato perché lui ogni tanto per vedere i replay si deve fermare, quindi fatevene una ragione, questo Pardo non c'è mai in questa trasmissione, io non capisco, ma veramente un'entità strana, tanto 0-0 gente Pardo per la radio sono come Mogol e Battisti per le canzoni. Solo che Mogol e Battisti c'erano sempre tutti e due, no? Quindi Pardo non c'è mai, e uno dice ma è a fare delle telecroniche, è a fare la boa al largo di Fregene, ma voglio dire, confessate che siete al mare, che siete lì con la Federica Margi, con tutte queste veline. Io ci sono qui prove documentali, documentali per le quali io sono a Radio 24, tutti i convocati, siete una roba scandalosa. Io lancio un appello a Marigioni, quello di Focus Economia, che mi sembra più serio, che venga a vigilare sugli orari di lavoro che fate tu e Pardo. Va bene, io e Pardo, tutti e due. Tu e Pardo, sì, sì, siamo a posto. 17esimo 0-0 per la gioia di Leo Turrini e di Pardo in Inter Real Madrid, che si gioca dall'altra parte del mondo. C'è chi mi prega, addirittura mi prega di chiederti chi ha vinto il premio Rododendro di giornata. Il Rododendro, okay, io sono un po' indeciso tra Hamilton e l'altro biondino, cioè Rosberg, ma propenderei più per il secondo. Non lo spieghiamo, il premio Rododendro non l'ho inventato io, lo inventò il grandissimo Nanni Loi in una trasmissione televisiva, certo, quando io ero un bambino, e viene assegnato ogni gran premio al personaggio che, diciamo così, rosica di più. Ora, se noi siamo obiettivi, ieri il rosicone era Rosberg, perché si era venuto a trovare una condizione che fino a pochi giri dalla fine poteva essere lui il leader della classifica mondiale alla pausa, no? Sì. Prima della sosta di un mese, e poi un po' perché lui, secondo me, denotando mediocrità, magari mi sbaglierò, ma quando dopo la safety car ha potuto azzerare il distacco, era negli scarichi di Vettel per una decina di giri, non ha mai provato ad attaccare Sando. Questo ha permesso a Ricciardo, che è un matto simpaticissimo, è un gran pilota, addosso, è un gran pilota. Dopodiché, onestamente, Ricciardo nell'episodio specifico ha esagerato, questo si è tradotto per Rosberg della foratura. Insomma, il risultato è che Rosberg, che stava recuperando tutto su Hamilton, ha perso una manciata di punti nei confronti del tamarro nero. Perché poi io vi voglio dire, ieri veramente avete capito perché Hamilton è un personaggio adorabile, no? Perché in lui c'è l'alfa e l'omega, come dicevi tu quando facevamo il liceo classico assieme, che tu eri molto più bravo di me, mi facevi copiare i compiti di greco. Nel senso, voglio dire che ieri Hamilton ha guidato come un dilettante allo sbaraglio. Come un pazzo, sì. Allora, la partenza è la cannata. Al primo giro finisce fuori pista, sì, dicendo che colpa di Rosberg. Va a fare un giro vero in piazza a Budapest. No. Dopo riesce a recuperare, si schianta con una Red Bull. Ce ne ha fatte di ogni, no? Hai capito? Una roba persino imbarazzante. L'ha detto lui stesso poi alla fine. C'è stata la peggior gara della mia carriera. La mia spiegazione è questa. Siccome c'erano state 3 settimane tra il Gran Premio precedente, tra il Gran ungherese, Hamilton è uno che quando non ci sono le corse, secondo me fa tutte le notti allo studio 54, questa mega discoteca, hai capito? Sì, sì. Si perde come te, Pardo, in mezzo a queste sciacquette. E poi quando arriva lì è ancora si fa tatuare un enorme leone sul petto. Insomma, è un po' suonato. È un po' di cose da fare. No? Quando ha cercato di entrare a Wimbledon, con la camicia a fiori, gli hanno detto: no, guardi. E gli hanno detto: lei si è venuto qui a vendere accendini e ha sbagliato posto. Questo è uno che guadagna 30 milioni di euro. Sei tremendo, tremendo. Ma è bravissimo, per me è il migliore. Ma guadagna 30 milioni e Starbucks di euro all'anno. E va in giro che tu lo vedi e dici: ma questo viene dal sud-sud, un poveretto, no? Cioè, ma è anche orgoglioso. Però come pilota, nelle giornate giuste, io lo dico con anche dispiacere, perché sono ferrarista, probabilmente il più bravo di tutti. Cioè, quando, come dico il sindaco di Roma Marino e Mourinho a proposito di Balotelli, colleghi neuroni, ecco, Hamilton è il più bravo. Sì, ma normalmente lo fa, Leo. Cioè, quella di ieri è stata la super eccezione che conferma l'assioma. Guarda, se io potessi avere... Quando ti ricapita Hamilton così, ma quando ricapita non solo alla Ferrari, ma quando ricapita anche a quello sfigatello di Rosberg? Allora, quando... la prospettiva di arriva bene, che in questo momento è giunto a Locri ed è salutato correndo da folle, perché questo arriva bene, sembra Forrest Gump, si deve allenare per 70 km. Allora, come dice sempre arriva bene, nella realtà della Formula 1 2015 questo è quello che deve fare la Ferrari: essere pronta a approfittare degli errori o anche delle sfortune altrui. Certo, perché certo, siamo tutti consapevoli che a livello puramente tecnico Mercedes è superiore. E io ti stavo dicendo, io penso anche che Hamilton, quando si riposa un po', diciamo quando è fisicamente al 100%, è il più bravo tra chi guida oggi in Formula 1. Sì. Però nelle circostanze in cui, ripeto, invece lui o la squadra, Mercedes, la macchina, eccetera, toppano qualche cosa, la Ferrari deve essere lì e provare a vincere. Questa è la sostanza del messaggio. Se buttano il bambino dalla finestra, i rossi devono essere lì a acchiapparlo al volo. Bravo, questo bisogna fare. E d'altra parte il ragazzo adesso sta uscendo con Rihanna, quindi avrà allora forse cose abbiamo qualche speranza. Noi alla Ferrari, io non lo sapevo perché tu sei lì in spiaggia, quindi conosco poi vai a sta uscendo con... Se esce con Rihanna, forse Vettel torna sotto per il mondiale, perché ha appena 42 punti di distacco a metà stagione e ci sono ancora 9 gare. Hai capito. Allora bisogna riprogrammare il pellegrinaggio. Però io prima di salutarti voglio farti parlare con due ascoltatori. Posso? C'è Pardo? No, ma Pardo è in gabina di commento, te l'ho già detto. Zero. SMS che Pardo è là che nuota con Cassaro, la moglie di Cassari al lago di Fregene. La Sampdoria, Ferrero non lo vuole. Mio caro, a me lo danno in gabina di commento. 0-0 tra Inter e Real Madrid al 24esimo. Che ti devo dire? Parlo in gabina con 34 gambe, per favore. Felice Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, simpatico romagnolo quest'oggi, buon pomeriggio. È sempre simpatico. Sì. Volevo solo dire questo, che ieri è stata veramente una gara bella. Interessante come si vedeva da tempo, ma la mia domanda è: le Mercedes hanno avuto difficoltà all'avvio in partenza, forse perché sono stati due giri di cognizione, quindi li hanno messi un po' sotto pressione, erano un po', non se l'aspettavano una cosa del genere, e quindi invece le Ferrari erano più attente, più meno sotto pressione? Questa è la domanda. Sentiamo Leo. È un bel quesito. Allora, io non credo che abbia influito la doppia procedura innescata dalla disavventura di Massa. In compenso è vero che Hamilton era sul lato pulito della pista, esattamente come Vettel e Raikkonen, perché erano 1-3-5 come posizione, no? Hamilton la partenza l'ha sbagliata, i due ferraristi che erano in verticale dietro di lui ne hanno approfittato. Rosberg ha meno responsabilità perché era invece sul lato sporco, quindi lì si sapeva che potevano pattinargli le gomme. Comunque c'è una cosa che verificheremo tra un mese in Belgio, perché in Formula 1, quando non sanno cosa fare, un po' come Genta qui a Ibiza, no? Esatto. Cambiano i regolamenti in corso d'opera. Certo. Per cui dal prossimo Gran Premio saranno proibiti o drasticamente limitati gli aiuti elettronici nella gestione della partenza per il pilota. Si ritornerà ad una manualità che potrebbe anche riservare qualche sorpresa, perché sono tanti i driver che in Formula 1 di fatto hanno sempre conosciuto questi sistemi, certo, tutti computerizzati, certo, no? Certo. Il che significa che la prima curva di Spa è primo quel rincoglionito di Raikkonen, perché sarà l'unico che si ricorda come si faceva partire senza l'elettronico. Allora, Paolo, provincia di Milano, e poi salutiamo Leo Turrini. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo solo candidare al premio Rododendro Bernie Eccleston, che ha iniziato a fare le riprese della Ferrari quando era sotto attacco da parte della McLaren negli ultimi giri. O sbaglio? Ma... No, allora, questa è una cosa, devo dire, divertente, che però ha generato un equivoco. Allora, io ho molte perplessità su come la regia internazionale, che gestisce sempre le immagini della Formula 1, credo tranne un paio di gran premi per questioni contrattuali, ma nel 97% dei casi c'è una regia televisiva internazionale che fa capo, come diceva l'ascoltatore, alla società di Eccleston. Allora, questi seguono un criterio. Se voi aveste le registrazioni, non ve lo auguro perché tanto vinceva sempre le Mercedes, ma dei Gran Premi precedenti, vi accorgerete che anche quando c'erano le Mercedes davanti, senza duello tra Hamilton e, sì, Rosberg, questi preferivano far vedere i duelli dietro. Perché? Perché se i due davanti sono separati da qualche secondo, non c'è contatto fra di loro, certo. Ma com'è giusto, effettivamente, ma è giusto che sia, eh? Allora il problema qual è per noi italiani? Che la Ferrari davanti non c'è mai. Quindi ieri, che per una volta, prima curva, Vettel, il biondino, mi vedo finlandese, bruciano le frecce d'argento, noi italiani avremmo voluto vedere lo spettacolo di questa sinfonia rossa, no? Sì, sì, sì. Però in realtà è un criterio, ripeto, guardatevi le restrizioni se le avete, che la regia internazionale attua, direi, in modo sistematico. E che non trovo d'altronde, neanche sbagliato, eh? Sì, infatti nemmeno io, devo dire. D'altronde poi sulle cose che sono state dette invece dai microfoni Rai, che c'era stato un litigio, questo Ferrari, si trattava di una vendetta. Io mi limito a dire che arriva bene, che in questo momento è quasi a Villa San Giovanni, perché va velocissimo a piedi, quindi se c'è un po' di coda verso il traghetto e lui che si sta allenando, arriva bene, ha smentito in maniera totale, drastica, la fine della gara, ha detto non è vero niente, noi non abbiamo mai litigato con Eccleston e non ne sappiamo nulla di questa, certo, cosa, certo. E lo stesso ma lo dico per l'ascoltatore, cioè, allora Eccleston ha molti difetti, ha quasi 100 anni, ma non è mica stupido, eh. C'è un brand, non solo in Italia, è popolare nel mondo dell'automobilismo, almeno è la Ferrari. Cioè, vuoi che metta la sordina a una vittoria rossa? Assolutamente, per lui, no, perché non gli conviene nella maniera più assoluta. È una cosa che non sta in piedi. Poi un altro discorso, dire, possiamo discuterne, ma la regia internazionale dovrebbe forse far vedere più spesso chi è al comando della corsa, ma io ho visto tante vittorie di Hamilton in TV, ce lo mostravano alla partenza che non come ieri la azzeccava, alla fine del primo giro, poi lo vedevamo ai pit stop e all'ultimo giro. Sì, sì, questo sì. Per onestà di cronaca, no, ma per capire, una roba, per capire, caro, per capire roba anche tu Genta e Pardo, i miei maestri, senz'altro condividerete con me, io sono ferrarista. Se voi mi dite i prossimi 9 Gran Premi vuoi non vedere mai Vettel e Raikkonen quasi in TV? Firmi subito, e vi faccio anche un bonifico bancario all'IBAN che voi provvedete ad indicare. Non me ne può fregare di meno, basta che vincano. Meraviglioso, ti saluto con questa notizia, con un urlo di Pardo, no, con un urlo metaforico di Pardo, immaginano che urla Gesè! In vantaggio Real Madrid, tiro di sinistro a centro area, palla nell'angolino, questo per me è un basso a destra su assist di Marcelo, e Andanovic è battuto. Io sono interista, ma aspetto la Coppa Italia col Trapani, ci rifaremo. Ciao Leo, ti abbraccio forte. Buone vacanze, buone vacanze un'altra volta. Il signor Pardo non è al momento raggiungibile. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. È un girone sicuramente duro, però preferisco pensare che la Spagna, questo sorteggio, sia per noi, deve essere uno stimolo per affrontare una delle squadre che sicuramente in questo momento sono il migliore al mondo, però sono anche convinto che possiamo dire la nostra e possiamo fare delle buone cose. Sulla carta sembrano favorite Italia e Spagna, no? Questo sulla carta, anche perché c'è l'Albania, sta facendo grandi cose nella fase di qualificazione agli europei, quindi penso che abbia grandi chance di qualificarsi per la fase finale. Diciamo che sulla carta penso che le due squadre che hanno maggiori chance di andare avanti siano Italia e Spagna, però rimane poi il campo. Questo era Antonio Conte, CT della Nazionale. L'Inter sotto 1-0 con Real Madrid, gol di Gesè. La notizia però un'altra: maglietta grigia e bermuda color khaki, scarpe bianche, zainetto da liceale, è arrivato Jovetic a Milano. Ne parliamo più tardi. Io voglio restare invece su questo girone, perché quando l'ho letto dico vabbè, la Spagna ovviamente poteva andarci meglio, però la terza forza del gruppo, che è quella che dà gli equilibri al girone, è l'Albania di Gianni De Biasi. Ciao Gianni. Ciao Carlo, un saluto a tutti i radioascoltatori. Tu come lo vivi questo girone? Ma con grande voglia, speranza, con grande fiducia, con la convinzione che possiamo anche noi dire la nostra, chiaramente con grande umiltà, sapendo che oggi il calcio non mostra più quelle grandi differenze di un tempo e che quindi per vincere una partita anche le grandi squadre devono fare grande fatica. Sì, e l'Albania sta dimostrando di essere, insomma, di essere sulla via per crescere ancora, oltre ai risultati già raggiunti. Siamo cresciuti tanto. Da quando siamo arrivati insieme al mio staff, credo abbiamo fatto un balzo in avanti di 50 posizioni nel ranking FIFA, e credo che col tempo si possa sicuramente vedere il frutto del lavoro, perché abbiamo una squadra relativamente giovane e questo è un aspetto molto importante, però giocatori che hanno magari meno esperienza internazionale di tanti che andremo ad affrontare anche prossimamente, però abbiamo un grande spirito di squadra, e poi quando i ragazzi mettono la maglia della nazionale sono orgoglioso di farlo e danno il 110%. Sì, poi potete correre senza eccessiva pressione sulle spalle, a differenza di molte altre grandi che state incontrando e che incontrerete. Sì, non ti nascondo che la pressione comincia a crescere anche in Albania, perché l'appetito viene mangiando e tu parti per far bella figura, e poi quando cominci a far bella figura la gente ti chiede sempre qualcosa in più. Io credo che noi oggi dobbiamo cercare di stare sereni, di cercare di giocare le nostre chance che abbiamo, e cerchiamo di stare però sempre coi piedi per terra e cercare di crescere giorno per giorno. C'è un'altra cosa che mi è venuta in mente, sono andato a cercarmi la data del primo confronto, sarà il 24 di marzo del 2017, Italia-Albania. Un'altra cosa che mi è venuto in mente, perché ci ricordiamo perfettamente l'amichevole che avete giocato a Genova, che fu qualcosa di storico per il popolo albanese per molte ragioni. Ebbene, sarà una doppia grandissima festa nazionale. Sì, credo. credo proprio di sì. Hai visto intanto a Genova tutti gli danesi che cantavano l'inno nazionale, sì, sono stati più di 20.000, che perché la seconda nazionale per gli albanesi è l'Italia, e quindi quando non gioca la propria nazionale l'albanese tifa fortissimamente Italia. Da sempre, da quando sono arrivato in Albania, tutti mi hanno chiesto sempre quando giocheremo con l'Italia, anche un amichevole, non pretendevano di più. Oggi purtroppo il destino ci ha messo di fronte un avversario difficile come la Spagna, però sono avversari stimolanti che noi cercheremo di mettere in difficoltà. Giustamente. Senti Gianni, ti salto di palo in frasca, come ti sembra la nascente Serie A? Mi sembra abbastanza bene, diciamo, rispetto agli ultimi anni. Mi sembra, siamo ancora a metà della strada, molte squadre non sono ancora al completo, e credo che comunque qualcosa di meglio rispetto agli ultimi anni si possa vedere. Un po' più di equilibrio, tu dici? Sì, io sono molto invece curioso di vedere Sarri, che ritengo un ottimo allenatore, anzi ottimo forse è diminutivo. Mi piacerebbe vederlo supportato come altri grandi nomi quando non riescono ad avere risultati, che possano dargli il tempo, perché per me lui è un professionista vero che sa insegnare il calcio. Sì, il problema è che forse abbiamo già discusso insieme, di tempo non ne avrà tantissimo. Io ho paura, anche se la scelta De Laurentiis, anche se tutto sommato stanno costruendo un mercato che è quello che lui voleva, è arrivato Higuain che è bello sorridente, addirittura pare stia trattando il rinnovo del contratto, però continuo a pensare che Sarri dovrà fare molto in fretta. Sì, dovrà fare in fretta, l'importante è che ci diano la possibilità di lavorare. E che lui sicuramente prenderà meno gol di quelli che ha preso il Napoli l'anno scorso. Su questo sì, posso metterci la mano sul fuoco. Anch'io. Le squadre che vogliono vincere il campionato devono cercare di metterci attenzione nella fase difensiva e guardando di far gol quanto prima. L'ultima cosa, la Rivolu Juve, rivoluzione in casa della Juventus. Rischio calcolato, mi sembra che la Juventus abbia scelto nel momento corretto questa strada, che perderà anch'io qualcosa dal punto di vista della personalità, che non si compra nemmeno al calciomercato, diciamo sempre. Però ha sfruttato questo nell'immediato, ha sfruttato questo vantaggio nell'immediato sicuramente, però credo che la Juve abbia già guardato non il proprio palmo di naso, ma guardando un po' più avanti, cercando di mettere in cantiere quelle che sono state secondo me le strategie sbagliate dell'Inter subito dopo il triplete, e loro hanno avuto la forza di cambiare. È chiaro che non è mai facile quando cambi, quando rinunci ai giocatori come Pirlo, forse per limitatezza, quando anche al Tevez, Vidal. Sì, Vidal, esatto, Tevez, che sono giocatori fondamentali, però li ha sostituiti con giocatori di sicuro affidamento, giovani, che devono solo dare una mano nell'inserimento in questi primi tempi. Certo. Grazie Gianni, buon lavoro. Grazie a voi. A presto, buona estate. Ciao a tutti. Ciao Gianni De Biasi, CT dell'Albania e nostro amico. Intanto l'Inter è sempre sotto 1-0 con il Real Madrid, ci stiamo avvicinando alla fine del primo tempo. Il gol è stato segnato da José. Sempre a proposito di Juventus, domani prevista conferenza stampa congiunta di Bonucci e del presidente juventino Andrea Agnelli, perché anche Bonucci ha rinnovato, è la quarta colonna della Juventus che rinnova fino al 2020 per tanti soldi. Dopo il traffico 800 24 00 24, voglio assolutamente parlare con voi, faremo un giro dei ritiri, vi dirò, anzi lo dico subito, che il Besiktas è a Firenze per chiudere finalmente questa lunga storia con Mario Gomez. La lunga storia per Salah invece continua ancora per qualche puntata. Oggi alle 19 ci sono i sorteggi per i calendari all'Expo. Attenzione, chi si avvicina in motorino ai padiglioni dell'Expo, in zona Expo, stia attento a De Laurentiis, perché questa l'abbiamo già vista. Poi vi faccio sentire l'effetto sonoro dell'arrivo di Jovetic questa mattina a Malpensa, sottolineando un aspetto curioso. tutto fatto, tutto definito, mi sembra sia prestito biennale per 3 milioni più 12 di obbligo di riscatto, totale fa 15. Era stato acquistato dal City per un trentello, quindi è curioso notare che gli inglesi, quando vogliono un nostro giocatore che gioca in Italia, arrivano con il borsone dei soldi e li buttano lì tutti. Poi, se questi non riescono, non sfondano, eccetera, eccetera, li si può pure pigliare e ripigliare a prezzi più o meno di saldo, visti le quotazioni correnti. Stiamo parlando anche di questo. Dopo il traffico c'è già Teresio dalla provincia di Cremona, 800 24 00 24, numero verde. Torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Buon pomeriggio Teresio, provincia di Cremona, 800 24 00 24, mentre 0-1 è il risultato di Inter Madrid che Pardo sta commentando. Teresio, buongiorno. Buongiorno caro Carlo, io caro mi seguo da moltissimo tempo e avrei voluto dire al signor Turrini, sì, di dare una dritta a Pardo, perché lui si sente benissimo con il suo telefono, mentre Pardo, che io vi ascolto da parecchi anni, purtroppo sapete benissimo che è inascoltabile quando parla. Qualche problemino, sì, ma siamo un problemino sulla... non indifferente. Poi avrei voluto anche sentire il suo parere riguardo a quanto ha detto Nick Lauda per noi italiani spaghettari. Non so, ma Lauda, tu cosa ne pensi? Penso che ci siamo abituati a Niki Lauda, non credo ci fosse un particolare intento offensivo. Lui però è uno così, quello che gli viene in mente lo dice, e poi ci sta anche la replica di Arriva Bene con la pizza all'arrabbiata. Certamente non è stata un'uscita elegante e nemmeno particolarmente nuova, no? Mi è sembrato qualcosa di forse di già sentito. Però Niki Lauda è questo, lo è sempre stato, non ha grandi peli sulla lingua, non ha grandi problemi anche nell'infastidire più che offendere gli avversari. Lo conosciamo bene e ieri, insomma, credo gli abbia detto male, no? La spaghettata gli è andata di traverso, o la pizza, come preferite. Allora, facciamo un salto nei ritiri delle squadre di Serie A. Volentieri, lo facciamo tutti i giorni. Frosinone, parla Stellone. L'ho detto già nella scorsa conferenza, una vale l'altra, quindi mi interessa poco. È normale che con quelle dove ho giocato c'è un sapore particolare anche a livello affettivo, di emozioni, perché comunque Genoa, Napoli, Torino sono state per me piazze importanti, quindi tanto prima o poi ci si deve giocare con queste squadre, quindi poi ve lo dirò. Adesso la priorità è per un attaccante, ma dobbiamo fare la scelta valutando mille aspetti, quindi non dobbiamo avere fretta. Dunque, questo Stellone, un altro mister. Andiamo al Genoa, dove c'è il Gasp, Gasperini. Noi in questo momento raggiungiamo un'identità tattica, prima ancora conosciamo bene questi giocatori che ci sono oggi. Oggi c'era Mugno, ci sono tanti nuovi, non sto a elencarli tutti, e poi dopo abbiamo anche fuori insomma qualche giocatore. Questa è la prima partita, abbiamo voluto, ne giocheremo altre di livello, tutte di, a parte qualcuna insomma infrasettimanale meno, ma se no giocheremo contro squadre B, contro squadre di A, contro squadre straniere. Questo era Gasperini, ovviamente un Genoa che è stato smontato e rimontato, adesso si tratta di vedere, di capire A, se rimarrà Perotti, che comunque è un giocatore che fa la differenza, punto secondo di intuire quantomeno se il valore di quelli che sono arrivati da Gasperini sia paragonabile rispetto a quelli che se ne sono andati. Al momento è una situazione molto difficile da leggere, parlo dal punto di vista tecnico, quello del Genoa, con una certezza e una garanzia, cioè il signore che avete appena sentito parlare. Terminato il primo tempo di Inter-Real Madrid, 0-1 per i Blancos, gol di Gesé, ve lo ricordo. l'Inter, come Mancini aveva annunciato, si è proposta in una formazione molto più vicina a quella che potrebbe essere la squadra standard, molto più vicina a quella dei titolari, con Handanovic in porta, Montoya, Ranocchia, Murillo e Juan Jesus. Quindi Hernanes, Condombia, Brozovic, Kovacic e davanti Palacio e Icardi. Però sta arrivando, oltre a Palacio e Icardi, anzi è già arrivato Jovetic, e io un attacco con questi due più Jovetic malissimo non lo vedo. Arriverà anche Perisic e mi sembra che i conti comincino a tornare per Mancini. Secondo me non si può parlare di scudetto, si può però parlare di qualcosa di certamente più interessante rispetto a quanto visto l'anno scorso. Che piacere, Piero Augusto Stagi, ciao! Ciao Carlo, buon pomeriggio. Mettiamo anche il cappello giallo sul Tour de France, ma dai, ma in fondo sono contento che abbia vinto Froome, che si è preso forse anche troppi insulti, forse anche troppa cattiveria addosso in questo Tour. Assolutamente sì, quello è stato veramente l'aspetto brutto di questo Tour de France, perché credo che il britannico non se lo meritasse assolutamente, anche perché lo vogliono far passare per antipatico e antipatico non è, perché è un ragazzo invece estremamente pacato, riflessivo, educatissimo, disponibile, bisogna riconoscere. Forse anzi, in questo bailame di insulti, di secchiate di urina, di sputi, di vernice contro l'ammiraglia, questo ci è andato a finire di mezzo Nibali e l'episodio dello screzio tra i due, che secondo me è stato ingigantito. Froome l'ha presa molto più male di quello che è, perché in realtà sono resto convinto che, ammettiamo anche che Vincenzo abbia anche visto Froome fermo, in ogni caso a livello tattico ha fatto gioco a Froome, perché andava a mettere pressione a Valverde, che era un uomo strategico per Quintana, compagno di Quintana, e attaccando Nibali dava assalto al terzo posto di Valverde, quindi certo, toglieva attenzioni, no? Valverde doveva pensare anche un po' alla propria pelle e non solo alla corsa per la maglia gialla. Però vabbè, in questa ultima settimana è successo veramente di tutto, come ricordavi tu, gli insulti, le situazioni veramente antisportive, di qualche deficiente, che poi non è così con qualche deficiente, Carlo, la verità vera che va detta tutta. Purtroppo il Tour ha una grande fortuna, si disputa a luglio, in piene vacanze, tantissimi vengono a fare le vacanze con i loro bei camper da tutto il mondo, tutta Europa. In particolare arrivano frotti di nordisi, non voglio accusare, però è lì, li ho visti con i miei occhi e da anni, tu forse le visti anche tu qualche anno fa. Gli olandesi sono persone simpaticissime, però sti ragazzi cominciano a bere alle 9 di mattina, certo, e aspettano la corsa che arriva alle 4 di pomeriggio. E poi vanno avanti, certo. Bravissimo, certo. Le condizioni sono pietose, queste non è che lo fanno perché ce l'hanno su, sono totalmente ubriachi, vanno a tema libero. Pier Augusto, però alla fine risulta il Tour de France, il popolo del Tour de France, non vai a leggere, certo, in queste pieghe, è il Tour che ha sputato addosso alla maglia gialla. Assolutamente sì, infatti non sto dicendo questo per giustificare, perché è ingiustificabile, però sto spiegando la dinamica di quello che accade. Gente che a casa magari non lo vede in TV, non capisce, questi invece si spostano proprio per una settimana, due settimane, tre settimane, proprio fanno le vacanze, tutti. Se il Giro d'Italia, l'ho sempre detto, il Giro d'Italia è una festa di biciclette, quindi l'appassionato va sulle montagne in bicicletta, al Tour invece si va coi camper, ce ne sono veramente, non dico milioni, ma poco ci manca, no? Sono veramente tantissimi, tant'è vero che è anche molto più difficile poi a riportare ordine, cioè scendere dall'Alpe d'Huez ci impieghi veramente delle ore, arrivi all'una di notte a Grenoble, perché prima non ce la fai, proprio perché ci sono tantissimi mezzi che devono tornare giù. Il problema è che qua ha a che fare con dei passi scatenati e purtroppo in questa situazione ci è andato di mezzo Chris Froome, che non se lo meritava, probabilmente sotto pressione sotto pressione, sicuramente non gli è piaciuto che Nibali fosse scattato e abbia messo pressione alla sua maglia, e ha visto soprattutto cosa è successo quel giorno alla Tosquia. Nibali ha fatto il gesto, secondo me, non perché sono iper tifoso italiano, ma a tutti gli effetti è il gesto di questo tour, sì. Perché attaccare a 60 km dal traguardo, lui ha messo a dura prova la scheda, tant'è vero che a un certo punto Froome è isolato. Sì, ma d'altra parte Pierluigi, anche qui non siamo alla corsa dell'oratorio, siamo tra professionisti e certe cose ci possono anche stare. E Vincenzo Nibali correva non per arrivare 23esimo piuttosto che 32esimo, ma correva per il podio, cosa importante. Esatto, esattamente, tant'è vero che però aveva 8 minuti di ritardo, e quindi Froome, che ha perso sostanzialmente 100 metri e sì, in pochissimi secondi ha sistemato la bici ed è rientrato sul gruppetto, certo, alla fine non ha rischiato nulla, però vabbè, è andata così. Secondo me è stato bello anche questo brutto gesto, perché l'ha reso anche lì molto più umano, nel sicuro, senso che non è un robot, anche lui sta alzando i nervi, anche lui può dire delle sciocchezze. E anche lui, soprattutto prima settimana per molti stupefacente, le altre due settimane invece anche di sofferenza, certo, anche di grandissima sofferenza. Pier, ti ringrazio molto, ti abbraccio, grazie a te Carlo, e buon ciclismo a tutti. Allora, orario estivo, ci fermiamo qui, tempo inizio del campionato, un mesetto, poi torneremo alle solite dimensioni, al solito menù. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Domani comunque alle 2 tutti convocati siamo qui. Grazie di tutti, di tutto, e una buona estate a tutti.